e un ultimo punto, gesticolare allevia il nostro, chiamiamolo così, carico cognitivo. Se io devo pensare a tante cose che sto facendo e devo dire faccio prima questo, poi quest'altro, lo faccio utilizzando le dita delle mani e gesticolando. È come se il cervello delegasse parte del suo carico anche ai gesti. Il linguaggio del corpo in effetti è molto importante. Come si parla il linguaggio del corpo? Mi voglio muovere un casino. Voglio mandare un sacco di messaggi subliminali al mio pubblico. Porre le braccia sui fianchi così significa dominanza o problemi. O magari quello che sta ballando la bomba, quello... un movimento sexy, ecco, potrebbe essere così. Un'altra cosa, ecco, questo è incredibile. Mani con i pollici verso l'alto, segno di pensieri positivi. Voi l'avete visto mai uno così? Professor Barbanti, abbiamo parlato di mani, di gesti con le mani, in realtà tutto il nostro corpo parla. Certamente, se leviamo le mani possiamo comunque comunicare con gesti con grande parte del nostro corpo. Il viso, ammiccare, aggrottare sotto la ciglia, arricciare il naso, sorridere, mostrare i denti, portare un po' più avanti la mandibola, che non è esattamente un segno molto conciliante, ma il collo addirittura ci fa comunicare. Pensiamo, a parte l'annuire o il negare, il tentennare il collo mentre noi parliamo ci fa capire che l'interlocutore non gradisce o non capisce. E poi ruotare il collo, questo lo fanno molti oratori. Il presidente degli Stati Uniti Obama è molto abituato a usare questa maniera di scannerizzare l'audience, come dire: vi vedo tutti, sono vicino a tutti voi. Gesticolare con le spalle, fare spallucce, sollevarle appena, oppure con il torace, arrivare impettiti, questo vuol dire qualcosa, o al contrario piuttosto curvi, un atteggiamento remissivo, o a volte torcere lievemente il proprio busto in una maniera che comunichi l'insofferenza o comunque un disagio o un'impazienza. E poi le gambe, questo è abbastanza frequente, tra l'altro è una gestualità anche tipicamente femminile, l'accavallare, il distendere, il battere per terra, sono i piedi in maniera ritmica, sono tutti gesti che consentono a volte non solo al soggetto di comunicare, ma anche a chi sta di fronte di capire in che condizioni psicologiche sta la persona che sta gesticolando. A volte tramite un gesto è possibile intuire una verità nascosta, gli psicologi lo conoscono bene questa espressività. E poi vorrei dire solo una cosa, la danza che affascina e ha sempre affascinato tutti i popoli a tutte le età, è la maniera attraverso il quale il corpo comunica gesticolando dalla testa fino ai piedi, viso incluso. Professor Barmanti, lei balla? Io molto poco, anche se sono d'origine romagnola, dovrei saperlo fare con una certa perizia, ma insomma farò dei corsi. Va bene, professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Ha gesticolato un po' intanto che parlava? Vistosamente. Ah, bene, questo mi la rende ancora più simpatico. Professore, buona giornata, grazie. Arrivederci, saluti a tutti voi. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buonissima giornata, vi do come sempre appuntamento domani in diretta alle 11 dopo il GR. La puntata di domani parlerà di bambini in vacanza. Ci state già pensando? Ci avete già pensato? Mare, lago, montagna? E poi che cosa farete con i vostri bambini? Qualche consiglio ve lo potremo dare noi. Scriveteci già sin d'ora, la nostra pagina Facebook come sempre è a vostra disposizione. Se avete qualche dubbio portatevi avanti, mandateci una mail esserebenessere@radio24.it. Per oggi è tutto, allora vi aspetto, a domani. Essere e benessere,